in primo piano. 7:21 minuti, buongiorno a tutti da Gigi Donelli. Vediamo in questi primi 5-6 minuti quali sono le aperture, i temi scelti dai quotidiani. Partiamo dal caso Grecia, infatti si riapre il caso Grecia e oggi il titolo del Sole 24 Ore. Allora, che cos'è accaduto? Ve lo leggo in sintesi: le smentite di Atene, Parigi e Berlino sono state immediate, ma la sola ipotesi che la Grecia starebbe pensando alla soluzione estrema di un'uscita dall'euro, come riportato dal settimanale tedesco Der Spiegel, ha fatto calare l'euro fino a 1,43 contro il dollaro dopo essersi avvicinato all'1,50 due giorni prima. Nelle stesse ore i principali ministri delle finanze europee, tra i quali Giulio Tremonti, si sono riuniti in un vertice d'emergenza a Lussemburgo per parlare dell'aggravarsi della crisi ellenica. La Grecia deve fare di più, è stata la conclusione, e l'Europa dovrà avere sempre più voce in capitolo anche sulle privatizzazioni. Ed è dunque giallo sull'uscita dall'euro, la moneta crolla a 1,43. Vertice UE straordinario sul debito, i greci devono fare di più. Questo è il titolo di apertura oggi del Sole, che naturalmente prepara o anticipa anche i contenuti sui temi politici, lo stop del Colle dunque al rimpasto, ma anche la giornata, l'avete sentito nel corso di GR24, delle assise di Confindustria a Bergamo. Marcegaglia dice: non rinunciamo alle critiche, ci torniamo tra un momento. La Stampa invece, i dubbi del Quirinale, è il titolo principale, ma anche la vicenda Osama è morto, lo vendicheremo, dicono le fonti di Al Qaeda, che di fatto al termine della settimana che si è aperta con l'annuncio del blitz americano che ha ucciso il leader di Al Qaeda, appunto Osama, di fatto confermano per la prima volta dall'interno la notizia in un venerdì, quello di ieri, che è stato segnato da manifestazioni anti-americane in diversi paesi del mondo, in diversi paesi islamici. Terroristi USA maledetti, Obama ai Navy SEALs, complimenti, ottimo lavoro. Intanto si dice Bin Laden cercava un altro 11 settembre. Per la Stampa di Torino anche la grande fotonotizia a proposito di Torino e gli alpini, un abbraccio per l'unità nella prima capitale, ovviamente l'adunata delle penne nere, domani la grande sfilata e oggi, come abbiamo sentito, anche la partenza del Giro d'Italia del 150enario. Rimpasto dunque, l'altolà del Quirinale, la scelta di Repubblica, la maggioranza è cambiata, il Premier vada al Parlamento, ma c'è anche un tema di spalla originale che è il caso Francia, se la Francia vuole bianchizzare la nazionale. Ricorderete, penso tutti, il disastroso mondiale francese, e mi riferisco ai mondiali sudafricani di calcio. Certo, anche il nostro è stato dello stesso grado in termini di gioco e risultati calcistici, ma per la Francia c'è stata una lunga coda di tensioni e di scandali, di una sorta di messa in discussione del modello che invece a suo tempo aveva portato alla vittoria, appunto, ai francesi, la vittoria mondiale. Era il modello della multiculturalità in una nazionale francese con una fortissima presenza di giocatori di passaporto francese, evidentemente provenienti dall'Africa e dal Maghreb. Ora, se la Francia vuole bianchizzare la nazionale, è il racconto di una Francia dove il mondo del calcio è sotto sopra. Ma vediamo ancora altre prime pagine. Il Corriere: maggioranza cambiata, valutino le Camere. Dunque anche in questo caso l'intervento di Napolitano. Qui fin dalla prima pagina viene segnalata un elemento insolito: le altre cariche e il silenzio, scrive Francesco Verderami. Si riferisce al triangolo istituzionale, cioè quel meccanismo per cui negli ultimi mesi all'intervento del Presidente della Repubblica ha fatto seguito una nota, un sostegno più o meno implicito da parte della seconda, della terza carica dello Stato, quindi Presidente del Senato e della Camera. Ecco, in questo caso, scrive Verderami, per una volta il triangolo istituzionale non si è attivato. Se è vero che ieri i Presidenti delle Camere non sono stati avvisati della nota con cui il Capo dello Stato li ha chiamati in causa, esortandoli a investire il Parlamento dell'innesto del governo di nuovi sottosegretari. E poi c'è una approfondimento, un'analisi su questo tema. Al-Qaeda accusa il colpo, invece l'apertura, il titolo d'apertura oggi di Avvenire, che in prima pagina mette anche la Siria. In Siria un altro venerdì di sangue, negli scontri sono 26 i morti. Il Giornale invece, attacco in questo caso esplicito alla iniziativa del Presidente della Repubblica, il comunista non ci sta, Napolitano contro il governo, il Presidente della Repubblica pretende che le nomine dei sottosegretari passino dal Parlamento. Questi alcuni dei titoli principali, sono già le 7:26, per cui andiamo agli approfondimenti tra qualche minuto, ma ora la linea torna alla regia. In primo piano. 7:34 minuti, rieccoci dunque. Vi ricordo, il Sole 24 Ore apre sul caso Grecia, anzi si riapre il caso Grecia, è proprio il titolo di questa mattina, giallo sull'uscita dell'euro, la moneta crolla a 1,43, mentre i temi politici e l'intervento del capo dello Stato sono al centro delle prime pagine. Rimpasto stop di Napolitano, il titolo del Messaggero, che d'altra parte dedica ampio spazio in prima pagina al caso Marta Russo, i genitori di Marta. Marta dice: nessun perdono perché ti ha ucciso. È la storia di fatto di come i genitori stiano vivendo la sofferenza di un caso che, lo ricorderete, ha portato il 9 maggio del 97 alla morte, a una morte assurda di una studentessa di giurisprudenza di 22 anni che venne raggiunta da un proiettile mentre andava a discutere i prossimi esami. Questo per il Messaggero, mentre da Genova al Secolo XIX parla di maxi sciopero, CGL maxi sciopero, ma anche di violenze a Genova, studenti picchiati. Grande adesione in tutta Italia allo sciopero generale delle CGL, scrive il Secolo XIX. A Genova almeno 10.000 persone in piazza, tafferugli, polizia, studenti con diversi feriti. La Lega è cala gli assi, invece il titolo della Padania, che di fatto richiama come suo tema principale di oggi il tema dell'immigrazione, insomma un classico. Le procure rilasciano i clandestini, è il titolo nelle pagine interne a pagina 8 e 9. Liberi tutti dunque, le procure rilasciano i clandestini, effetto amnistia della sentenza UE, arriva al compimento la lunga offensiva dei giudici contro le norme del pacchetto sicurezza. Ancora invece il Fatto Quotidiano: il mercato dei sottosegretari anche per Napolitano è troppo, maggioranza diversa e occorre una nuova verifica parlamentare. La strada giusta invece il titolo che sovrasta una grande fotografia della manifestazione del primo sciopero generale per Susanna Camusso, descritto in questo modo dal Manifesto. Per il Riformista è stop dal Colle, e per l'Unità infine è sciopero generale, centinaia di migliaia nelle piazze della CGL. In questo caso la fotografia che racconta la manifestazione di ieri è quella di Firenze, di una piazza fiorentina. Allora, abbiamo citato il grande tema economico di questa giornata, dunque il caso Grecia che si riapre nonostante le smentite di Atene, di Parigi, di Berlino, da una notizia cominciata a circolare ieri riportata dal settimanale tedesco Der Spiegel. Ovviamente l'Eurozona sotto stress è al centro degli approfondimenti del primo piano sul Sole 24 Ore. Trovate dunque una serie anche di quadri, di schemi sulla crisi dei conti e i conti in crisi. Vertice d'emergenza sulla Grecia, ministri delle finanze a Lussemburgo, è il titolo dell'articolo di Isabella Bufacchi. La Grecia dovrà fare la sua parte, scrive, e rincarare la dose delle misure di correzione dei conti per convincere i paesi europei a continuare gli aiuti. Questo è di fatto la sintesi, quello che emerge dall'incontro d'emergenza di ieri. Al punto, scrive scrive Buffacchi, che tra le ipotesi in esame è emerso un sistema di controllo esterno del processo di privatizzazione. Insomma, sembra veramente una presa in carico della Grecia. Quel piano annunciato da Atene che dovrebbe portare nelle casse dello Stato 50 miliardi di euro. Come ha confermato in serata il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, i grandi paesi dell'area euro escludono una ristrutturazione del debito greco perché si tratta solo di una soluzione finanziaria che lascia irrisolto il problema dei conti dell'avanzo primario. Ecco, naturalmente quello che rimane anche, e non è solo in questa circostanza, ma insomma il tema dell'euro porta con sé sempre l'interrogativo sullo scenario di abbandono dell'euro. Bene, questo aspetto viene affrontato qui in una colonna di spalle che vi leggo brevemente. Abbandonare l'euro, roba da ricchi ricchissimi. Ecco, quando il tedesco Der Spiegel ha gettato i mercati valutari nello scompiglio pubblicando la sensazionale notizia, ci si è posti la questione. Lasciare la tessera dell'Euroclub però avrebbe altissimi costi economici, sociali, strategici ed immagini, costi insostenibili anche per un paese virtuoso come la Germania, figurarsi per la Grecia. Reintrodurre la dracma dopo 12 anni significherebbe per Atene sganciare il sistema bancario da quello europeo, innescando una probabile corsa dei correntisti agli sportelli e danni incalcolabili alle imprese. Insomma, fallimenti, disoccupazione, inflazione, le conseguenze probabili. Schiacciata dal debito pubblico e dalla crisi politica e sociale, la dracma finirebbe sotto l'attacco della speculazione finanziaria ancor prima di rinascere. Questo per quanto riguarda dunque uno dei grandi temi di questa giornata. Naturalmente vi continueremo ad aggiornare nel corso di tutto il fine settimana sugli incontri e le iniziative attraverso gli aggiornamenti costanti di Radio 24. Ma andiamo invece a un altro tema che è proprio l'oggetto invece dell'editoriale del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napolitano. Vi ho letto dal titolo Le assise di Confindustria, l'agenda per l'Italia. Ecco, c'è stato in questi giorni anche uno scambio tra governo e appunto Confindustria e imprenditori sul ruolo, sulle richieste che l'impresa fa al governo e la risposta, la richiesta di fatto di assunzione di iniziativa da parte del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Intanto ieri il convegno della piccola industria a Bergamo, Emma Marcegaglia, ha anticipato che alle assise generali di oggi, dunque, si parla di relazione industriale, di crescita, con l'obiettivo di proporre un'agenda con poche cose chiare, pochi punti, ma fondamentali per tornare a crescere. E allora, perché l'Italia non cresce? Perché quando le cose vanno male da noi vanno peggio e quando vanno bene da noi vanno meno bene? Questo di fatto sono gli interrogativi che il direttore del Sole 24 Ore Roberto Napolitano pone oggi nel suo editoriale. Per spiegare in profondità il significato di due interrogativi così impietosi, Fabrizio Galimberti, dalle colonne di questo giornale, si è affidato a Voltaire, scrive Napolitano. Giudica un uomo dalle sue domande piuttosto che dalle sue risposte. Allora, parafrasando Voltaire, potremmo dire: giudica un paese dalle sue domande piuttosto che dalle sue risposte. Tutti, ma proprio tutti, hanno un pezzo di responsabilità se siamo costretti a ripeterci ossessivamente queste due domande, e sarebbe bene che ognuno cominciasse a chiedere prima a se stesso piuttosto che agli altri in cosa ha sbagliato. E allora il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha le sue ragioni per chiedere agli imprenditori italiani di cominciare a fare qualcosa loro per il governo e non di continuare solo ad aspettare che il governo sia il governo a fare qualcosa per loro. Nel frattempo lui e il suo ministro dell'economia Giulio Tremonti, che hanno il merito di aver difeso la stabilità dei conti, dovrebbero però spiegare non agli imprenditori ma ai loro elettori perché dal 94 ad oggi non sono riusciti a fare ad esempio la riforma fiscale e perché esitano così tanto sul terreno delle liberalizzazioni. Ricorda presidente Berlusconi la lavagna di Porta a Porta, il contratto con gli italiani, la promessa di ridurre a solo due aliquote al 23-33% il prelievo dell'IRPEF dalle buste paga, ricorda la legge obiettivo e i cantieri che di fatto ha sempre solo annunciato di aprire. Ecco, questo un passaggio, uno dei passaggi dell'editoriale, ve ne leggo, che si rivolge appunto con una serie di questioni al ministro Tremonti, ma anche al presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che scrive: ha avuto lo scomodo coraggio di rimettersi in gioco in un'operazione verità, appunto chiamando oggi a Bergamo migliaia di imprenditori. E Napoletano scrive: ci permettiamo di darle un consiglio, li ascolti tutti, ma poi cominci davvero a chiedere a se stessa, come leader degli industriali e ai singoli imprenditori, quello che sa di poter dare e di dover esigere, perché si esita a immettere capitali propri per rafforzare i patrimoni societari e affrontare la sfida non più eludibile della dimensione? Perché si ha così tanta paura di managerializzare le proprie aziende e di affidarne la guida a chi è del mestiere? Insomma, forse se si prendesse coscienza che il tempo è scaduto per tutti, si potrebbe ritrovare la forza di uscire dalla deriva in cui si è più o meno consapevolmente precipitati. Questi sono alcuni passaggi dell'editoriale che trovate ovviamente sulla prima del Sole 24 Ore questa mattina. Ecco, riprendendo invece il tema politico di giornata, vi avevo segnalato che, oltre appunto naturalmente ai titoli sostanzialmente allo stop al monito del Quirinale dopo la nomina dei sottosegretari, sulla prima del Corriere della Sera viene richiamato una sorta di anomalia, o almeno quella che Francesco Verderami segnala come le alte cariche e il silenzio, cioè quel triangolo istituzionale che non si è attivato. Ecco, il silenzio dei presidenti, ora si cerca una soluzione condivisa, leggiamo dalle pagine interne. Ha colpito il silenzio con cui Schifani e Fini hanno accolto l'intervento di Napolitano. È vero che l'inquilino di Montecitorio aveva avuto modo nel corso della giornata di sottolineare ancora una volta il grande equilibrio del capo dello Stato, ma al pari del collega di Palazzo Madama non ha voluto commentare la nota con cui il Quirinale ravvede di fatto un cambio di maggioranza dopo le nomine dei nuovi sottosegretari. Non c'è dubbio che il mancato preavviso abbia colto di sorpresa i titolari delle Camere, e ancora a tarda ora, ieri sera, Schifani e Fini non si erano sentiti. Sentiamo invece adesso come vanno le cose, sono le 7:45 minuti e qualche secondo, sulle strade italiane, poi torniamo per l'ultima parte. In primo piano. Di fatto Napolitano pretende che l'esecutivo si sottoponga a un nuovo voto di fiducia, sperando forse che il malumore dei deputati PDellini per le nomine dei responsabili giochi un brutto scherzo al Cavaliere. Questo è un breve passaggio dell'editoriale di Alessandro Sallusti sul Giornale, ve l'ho segnalato, decisamente diciamo in linea appunto molto vicina alla posizione governativa, ma insomma nulla di particolare. Il comunista non ci sta, è addirittura il titolo di oggi del Giornale, e questo è tutto sommato una delle posizioni divergenti di una serie di commenti che riflettono piuttosto su quello che nel caso di Stefano Folli sul Sole 24 Ore diventa un'operazione di igiene istituzionale in un clima sempre più opaco. Scrive infatti Folli che l'ipotesi adombrata da Berlusconi circa un provvedimento ad hoc per creare un'altra decina di poltrone non ha migliorato le cose. Il riferimento è dopo la nomina dei sottosegretari, rispetto a chi appunto agli scontenti tra i cosiddetti responsabili, Berlusconi dice ne faremo degli altri. Ecco, questo passaggio ulteriore, scrive Folli, non ha certo contribuito a migliorare le cose. Allora, la richiesta di verificare in Parlamento il mutamento della maggioranza non è un semplice puntiglio, né vale replicare che il governo ha ottenuto molti voti a suo favore. In questo caso c'è infatti un'esigenza, potremmo dire di igiene istituzionale. La democrazia parlamentare esige il rispetto di certe regole, e in questo caso, se la maggioranza cambia perché si è verificata una scissione nel PDL con l'uscita di Fine e l'arrivo alla spicciolata di un certo numero di eletti con l'opposizione, è bene che il Parlamento si esprima, o almeno che ne prenda nota. In fondo, prosegue Folli, il gruppo dei cosiddetti responsabili non è un vero e proprio partito, ma è un collettore di transfughi. Questo per la pagina politica, ma voglio prendere il tempo di segnalarvi almeno due passaggi di altri temi che abbiamo citato. Uno in particolare è questo articolo che viene riportato sulla prima di Repubblica questa mattina: vogliono bianchizzare la Francia, vi ho letto poco fa. Effettivamente non è una questione di sport, tutt'altro, è una questione di cultura, è una questione di società europea in un paese ovviamente centrale di questa storia e che passa attraverso il calcio nella tempesta tra indagine e polemiche, infatti crisi di un modello. Enrico Sisti scrive: comincia tutto l'8 novembre, durante una riunione federale il direttore tecnico delle nazionali, francesi ovviamente, François Blacard, presenta un grafico che riporta le percentuali dei giovani con doppio passaporto. Tra gli under 16 sono il 39%, un anno più grande il 48%, poi 41%, 49%, 35%, 46% gli under 21%. Un misto di razzismo e di protezionismo che curiosamente combacia con uno dei punti del programma elettorale di Marine Le Pen. Naturalmente tutto questo si inquadra in un discorso che ci porta al prossimo anno, elezioni presidenziali in Francia. Ecco, i giovanissimi col doppio passaporto, africani e magrebini, tutti piccoli aspiranti campioni raccolti dalla passione sotto la grande scritta Espoir, quindi speranze, crescerebbero in Francia sfruttandone storia e infrastrutture per poi andare a giocare con le nazionali degli altri paesi, dall'Algeria alla Costa d'Avorio, perché lì è più facile emergere. Ecco, da questa riunione, poi i contenuti trapelati, parte un dibattito, una polemica che assume dei toni anche molto aspri e che appunto affronta temi che vanno ben al di là di quelli calcistici. Vi segnalo solamente un paio di interviste, una a Dominique Moisi, il politologo ad Harvard, che parla di evoluzione di un sistema in crisi e dice: è assolutamente evidente che il calcio riflette le ansie della società, anche nel modo in cui si equivocano certe parole. Insomma, si prende subito la palla al balzo. Il caos per qualcuno è sinonimo di successo, fa tornare certi conti. Poi nella pagina a fronte c'è un'intervista con un noto giocatore noto anche per essere, come dire, per avere una solida reputazione di giocatore impegnato e presente sempre nei dibattiti. Mi riferisco a Lilian Thuram, quindi nato alle Antilles, ex difensore di Francia e ovviamente in Italia, lo ricorderanno, in Parma e Juventus. Thuram è impegnato da tempo nelle attività di una fondazione che ha realizzato, la Fondazione Education contro il Racismo, quindi educazione contro il razzismo, e parla in questa lunga intervista e dice: c'è una volontà inconfessabile che ci siano meno giocatori con la pelle nera o di origine magrebina, si interroga. Negli anni 90 non sarebbe successo una cosa del genere, ci vedo proprio un riflesso della società attuale. C'è un clima propizio in Francia, il razzismo aumenta e ora stiamo parlando di discriminazione nei confronti di ragazzini di 12 anni. È una cosa accettabile? Si chiede e ci chiede l'ex appunto difensore della nazionale e delle squadre italiane. Solo una battuta, sono molte le domande. Questa vicenda, le chiede il giornalista, le ricorda qualche esperienza personale? E lui risponde: un vecchio allenatore mi diceva spesso, Lilian, con il tuo fisico e con la mia intelligenza avremmo fatto miracoli. E naturalmente anche in questo c'è un chiarissimo sottinteso a un concetto, a un'idea che è evidentemente profondamente razzista, per cui gli africani vanno bene quando corrono, pedalano e poi per la tecnica eccetera eccetera. Passiamo ad altri, abbiamo ancora 30 secondi, in realtà non bastano per leggervi l'approfondimento che mi limito a segnalarvi sulla caccia ad al-Zawahiri. Naturalmente mi riferisco in questa settimana che si conclude di fatto, dopo essersi aperta sulla morte, sull'uccisione di Bin Laden, ora è caccia ad al-Zawahiri. Pronti, attentati a diga ed acquedotti, lotta contro il tempo, le prime informazioni dai computer. Ecco, nel Blitz una valanga di informazioni, si parla di 2,7 terabyte, 2700 miliardi di byte contenuti nei 10 hard disk trovati appunto nell'abitazione, nel rifugio di Osama Bin Laden. Ecco, questo è l'oggetto ora delle analisi degli americani che puntano a colpire quello che viene considerato il probabile successore di Obama. Tempo di chiudere, da parte mia un saluto e un appuntamento a partire da poco dopo le 9 per il consueto appuntamento del sabato con Punto a Capo. Ora naturalmente tra pochissimo gli aggiornamenti da GR24.